Parigi, metà settembre 1812. Credo che smarrirei la ragione se non potessi scrivere tutto. Di quello che penso non posso far parola con nessuno. Sono così terribilmente sola in questa immensa Parigi. Nella mia città, come io la chiamo col cuore, perché qui sono stata indicibilmente felice e indicibilmente infelice. Giulia, per la verità, mi ha invitata a Mortefontaine nei giorni più caldi dell'estate, ma per la prima volta nella mia vita non ho potuto dirle quello che penso. Una volta stavamo insieme da ragazze nella stessa camera a Marsiglia, ma adesso lei dorme a fianco di Giuseppe Bonaparte. E Maria? Maria è la madre di un soldato che è andato in Russia alla guerra con Napoleone. Non mi resta. Dio mio, è proprio strano. Non mi resta come confidente che il mio aiutante personale svedese, il conte Rosen, di nobiltà nordica, biondo, dagli occhi azzurri e sempre calmo. Svedese in tutte le fibre del suo cuore. Da secoli la Svezia si dissangua in guerre contro la Russia. Adesso il nuovo principe ereditario ha stipulato un'alleanza con l'antico nemico dei nemici. E il biondo conte Rosen non capisce di che cosa si tratti, non si accorge che io sono turbatissima, è enorme. Sono usciti di qui insieme un paio d'ore fa il conte Talleyrand, principe di Benevento e consulente del Ministero degli Esteri, e Fouché, duca d'Otranto ed ex ministro della Polizia. Veramente sono venuti ciascuno per proprio conto e si sono incontrati per caso nel mio salotto. Talleyrand arrivò per primo. Non sono più avvezza a ricevere visite. I miei amici vivono in stato di esaltazione per le vittorie di Russia e mi evitano. Chiamate il conte Rosen. Desidero che mi accompagni in salotto, dissi a Madame Laflotte mentre mi cambiavo d'abito in fretta. Non riuscivo a immaginarmi che cosa volesse da me Talleyrand, e per di più in un chiaro pomeriggio. Se fosse venuto verso il tramonto a bere un bicchiere di champagne tra le azzurre ombre del giardino, allora avrei capito. Talleyrand mi aspettava nel mio salotto e osservava con gli occhi semichiusi il ritratto del primo console. Prima ancora che io potessi presentare il conte Rosen, fu annunciato il duca d'Otranto. Ma non capisco, mi sfuggì detto. Talleyrand inarcò le sopracciglia. Che cosa non capite, Altezza? È tanto tempo che non ricevo visite, risposi confusa. Dite al duca d'Otranto di favorire. Fouché apparve visibilmente contrariato di trovare da me Talleyrand, dilatò le narici e sussurrò: Sono lieto di vedere Vostra Altezza in compagnia. Temevo che Vostra Altezza fosse molto sola. Ma sono stata molto sola fino a questo momento, dissi, e mi sedetti sul divano sotto il ritratto del primo console. I due ospiti presero posto di fronte a me. Yvette portò il tè. Questi è il famoso ministro della Polizia di Francia, che per ragioni di salute si è ritirato nei suoi possedimenti, spiegai al conte Rosen. Il conte Rosen porse le tazze del tè agli ospiti. Sembra che nei possedimenti del duca d'Otranto si abbiano notizie altrettanto precise quanto al Ministero degli Esteri di Parigi, osservò Talleyrand. Certe notizie si diffondono presto. Fouché beveva a piccoli sorsi educatamente. Quali notizie? Domandai io con cortesia. Le vittorie dell'esercito francese non sono certo un segreto. Dalla presa di Smolensk in qua le campane, si può dire, non hanno più cessato di suonare. Già, Smolensk, disse Talleyrand, e finalmente aprì gli occhi e prese ad osservare con molto interesse il ritratto di Napoleone giovane. Del resto le campane tra un'ora riprenderanno a suonare, Altezza. Che cosa dite mai, eccellenza? Esclamò Fouché. Talleyrand sorrise. Ne siete sorpreso? L'imperatore conduce il più grande esercito di tutti i tempi contro lo zar. È naturale che le campane tornino presto a suonare. Ciò non vi dà noia, Altezza? No, naturalmente no. Al contrario, io sono. Mi interruppi. Io sono francese, volevo dire, ma non sono più francese da un pezzo, e mio marito ha concluso un trattato di amicizia con la Russia. Credete davvero alla vittoria dell'imperatore, Altezza? Si informò Talleyrand. L'imperatore non ha mai perso una guerra, risposi. Seguì uno strano silenzio. Fouché mi squadrava incuriosito. Mentre Talleyrand terminava di bere lentamente e con piacere il tè, veramente ottimo. Lo zar ha chiesto consiglio, disse quando ebbe finito, deponendo la tazza vuota. feci cenno a Yvette che gli versasse dell'altro tè. «Lo zar chiederà la pace», dissi io, annoiata. Talleyrand sorrise. «Era questo che si aspettava l'imperatore dopo la vittoria di Smolensk. Ma il corriere che è arrivato un'ora fa a Parigi per annunciare la vittoria di Borodino non ha notizia di trattative di pace. Eppure questa vittoria apre la via di Mosca». «Era venuto per dirmi questo? Vittorie, vittorie! Da parecchi anni niente altro che vittorie! Annuncerò a Maria che presto Pierre entrerà in Mosca. Ma con ciò la spedizione di Russia dovrebbe essere terminata. Prendete ancora una fetta di marzapane, eccellenza. Vostra Altezza ha, in questi ultimi tempi, avuto notizie di Sua Altezza Reale, il principe ereditario?» domandò Fouché. Io risi. «Già, adesso voi non sorvegliate più la mia corrispondenza. Il vostro successore potrebbe dirvi che da 15 giorni Giambattista non mi ha più scritto, ma ricevo lettere da Oscar. Sta bene e...» Tacqui. Quei signori, udendomi parlare di Oscar, si annoiavano. «Il principe ereditario di Svezia è partito da Stoccolma», disse Fouché, senza cessare mai di guardarmi. «Partito?» Guardai prima l'uno, poi l'altro, maravigliata. Anche Rosen dischiuse le labbra stupefatto. «Sua Altezza Reale è ad Abo», continuò Fouché. Rosen sobbalzò. Io lo guardai fisso. «Abo? Dove si trova Abo?» «In Finlandia, Altezza», disse Rosen. La sua voce si era fatta rauca. «Ah, sempre la Finlandia! Ma la Finlandia è occupata dai russi, non è vero?» Talleyrand stava bevendo la sua seconda tazza di tè. «Lo zar ha invitato il principe ereditario di Svezia a incontrarsi con lui ad Abo», disse Fouché compiaciuto. «Ripetetemi quello che avete detto e lentamente», lo pregai. «Lo zar ha invitato il principe ereditario di Svezia ad un colloquio con lui ad Abo», ripeté con aria di trionfo Fouché e guardò fisso in faccia Talleyrand. «Che cosa vuole lo zar da Giambattista?» «Dei consigli», rispose Talleyrand annoiato. «Un ex maresciallo che conosce profondamente la tattica dell'imperatore è senza dubbio un eccellente consigliere in una situazione come questa. E in seguito a questi consigli lo zar non manda più dei negoziatori di pace all'imperatore, ma lascia che il nostro esercito continui ad avanzare», disse Fouché in tono indifferente. Talleyrand guardò il suo orologio. «Ormai da un minuto all'altro incominceranno a suonare le campane per annunciare la vittoria di Borodino. Tra pochi giorni le nostre truppe entreranno a Mosca». Seguì un breve silenzio. Fouché prese una pasta di marzapane e incominciò a mangiucchiare. «Tuttavia, questi consigli che si affermano dati da Sua Altezza Reale allo zar», incominciò il conte Rosen. Fouché sogghignò con una smorfia. «L'esercito francese entra in villaggi che sono stati bruciati e distrutti dai loro abitanti. L'esercito francese non trova che granai incendiati. L'esercito francese avanza di vittoria in vittoria e soffre la fame. L'imperatore è costretto a far affluire i viveri dalle retrovie. Questo l'imperatore non lo aveva previsto. E neppure aveva previsto gli attacchi di fianco dei cosacchi, che non si decidono mai a dare veramente battaglia, ma l'imperatore spera di poter rifornire a Mosca le sue truppe. L'esercito svernerà a Mosca. Mosca è una città ricca e potrà vettovagliare le truppe. Come vedete, tutto dipende dall'entrata a Mosca». «Dubitate forse di questa entrata?» domandò il conte Rosen stupito. «Sua Eccellenza, il principe di Benevento, ha detto poco fa che le campane da un momento all'altro annunceranno la vittoria di Borodino. La via di Mosca è libera. L'imperatore dopodomani sarà già probabilmente al Cremlino, caro conte», dichiarò Fouché e continuò a sogghignare. Un grave affanno incominciò a serrarmi la gola. Disperata guardavo ora l'uno, ora l'altro. «Vi prego, signori miei, ditemi con tutta sincerità perché siete venuti proprio da me?» «Già da molto tempo volevo farvi visita, Altezza», disse Fouché, «e poiché ho saputo della notevole parte che il vostro augusto marito ha in questa lotta di popoli, sento con tutto il cuore il bisogno di confermare a vostra Altezza la mia simpatia, la mia ormai antica simpatia». «Già, sono anni ormai che il ministro della polizia di Napoleone ci ha spiati. Non vi capisco», dissi soltanto e guardai Talleyrand. Forse che un antico insegnante di aritmetica è così difficile da comprendere, Altezza? Domandò Talleyrand. Le guerre sono come le equazioni della matematica superiore. Anche nelle guerre si calcola con un'incognita. In questa guerra si tratta di un incognito e questo incognito, dopo il suo incontro con lo zar, non è più sconosciuto. Il principe ereditario di Svezia è entrato in scena, Madame. E quale vantaggio rappresenta per la Svezia questo intervento? Invece della neutralità armata, un'intesa con la Russia? Saltò su a dire con fervore il conte Rosen. Temo che la neutralità armata della Svezia non impressioni granché l'imperatore. Sua maestà ha occupato la Pomerania svedese, non sarete mica scontento della politica del vostro principe ereditario, mio giovane signore. Ma il mio biondo e giovane conte non si rassegnava. I russi hanno 140.000 uomini alle armi e Napoleone? Quasi mezzo milione, assentì Talleyrand. Ma un inverno russo senza accantonamenti adatti distrugge anche il più grande degli eserciti, mio giovane amico. Capì? Senza accantonamenti adatti. Mio Dio, capì? In quel momento le campane presero a suonare. La flotta spalancò la porta e gridò: un'altra vittoria! Abbiamo vinto a Borodino! Non ci movemmo. La squillante marea delle campane rovinava sul mio capo. Napoleone vuole svernare a Mosca. Che consiglio ha dato Giambattista allo zar? Fouché e Talleyrand hanno spie e informatori in tutti i campi. Saranno sempre dalla parte del più forte. Se oggi mi fanno visita è segno che Napoleone perderà questa guerra, chissà quando, chissà dove. Mentre squillano a Parigi le campane vittoriose, Giambattista è intervenuto e assicura la libertà di un piccolo popolo del nord. Ma Pierre muore di freddo e Villatte si dissangua. Talleyrand fu il primo a congedarsi. Fouché, invece, attese ancora. Se ne stava seduto e masticava il marzapane, si cacciava la lingua nei vuoti dei suoi denti lunghi e gialli e guardava il ritratto di Napoleone. E sembrava molto contento. Di che? Della nuova vittoria oppure di se stesso perché era caduto in disgrazia? Solo quando tacquero le campane si levò in piedi. È in gioco il bene del popolo francese, il popolo anela la tranquillità, dichiarò. Non riuscivo a trovare alcun doppio senso in queste parole banali. Il principe ereditario di Svezia ed io tendiamo allo stesso scopo, alla pace, soggiunse ancora. Si chinò sulla mia mano, le sue labbra erano appiccicaticce. Ritirai in fretta la mano. Uscii nel giardino e mi sedetti sulla panchina. Le rose erano sfiorite da un pezzo, il tappeto d'erba inaridito. Provai un'improvvisa angoscia di questa mia casa e di tutti i suoi ricordi. Avevo capito e ancora non riuscivo a rendermi ragione. Nel mio sbigottimento, diedi ordine al cocchiere di attaccare. Quando stavo per salire in carrozza, il conte Rosen era già allo sportello. Troppo spesso dimentico che ho un aiutante personale. Questa volta sarei uscita così volentieri da sola. Andavamo lungo la Senna. Ad un certo punto mi accorsi che Rosen mi stava raccontando qualche cosa. Si interruppe per rivolgermi una domanda. Questo duca d'Otranto si chiama così, non è vero? Sì. È il Fouché di una volta, l'imperatore lo ha fatto nobile, ebbene? Questo Otranto conosce dei particolari del colloquio di Abo, mi ha informato di tutto in anticamera. Sua Altezza era accompagnato dal cancelliere Wetterstede e dal maresciallo del regno Adlercreutz, e c'era anche Löwenhielm con. Io annui, questi nomi mi dicono così poco. Prima rimasero soli lo zar e Sua Altezza, poi prese parte alle conversazioni anche un ambasciatore inglese. Si crede che Sua Altezza farà concludere un'alleanza tra l'Inghilterra e la Russia. L'alleanza risolutiva contro Napoleone, Altezza. Si dice che in segreto anche l'Austria. Ma l'imperatore d'Austria è suocero di Napoleone, obiettai. Non importa, Altezza, Napoleone ce lo ha costretto. Un Asburgo non avrebbe mai accolto spontaneamente questo parvenu nella sua famiglia. La carrozza procedeva lenta, nel vespro turchino si ergevano nere le torri di Notre Dame. C'ero anch'io, Conte Rosen, quando questo parvenu, come voi amate chiamare l'imperatore dei francesi, tolse la corona di mano al papa e se la pose in capo da sé. Ero in piedi, dietro alla bella Giuseppina, e reggevo un cuscino di velluto con un fazzoletto di pizzo, qui, in questa cattedrale, conte. Bianchi brandelli di giornali nuotavano nel rigagnolo della via, edizioni straordinarie del Moniteur annuncianti la nuova vittoria. Domani gli spazzini li scoperanno dentro la fogna. La gente sedeva indifferente davanti alle porte delle case. Erano avvezzi alle vittorie, sentivano soltanto la nostalgia dei loro figliuoli. Tutto era come sempre. Soltanto mi serrava il cuore una grande tristezza. Forse, quando tutto sarà finito, torneranno davvero, voglio dire, i Borboni, disse con indifferenza il biondo conte. Io lo guardai di profilo, viso classicamente modellato, pelle diafana, capelli chiarissimi, spalle strette di adolescente. Passammo sul Pont Royal. Le finestre di Maria Luisa erano illuminate. Vi presenterò all'imperatrice Giuseppina, conte, dissi improvvisamente. Dopo il divorzio ha pianto per 2 giorni e 2 notti, poi si è fatta massaggiare la faccia e ha ordinato 3 abiti nuovi. Palpebre d'argento, sorriso con le labbra chiuse. Napoleone ha rubato per lei agli italiani il ritratto di Mona Lisa. Farò vedere al contino svedese la più bella donna di Parigi e domanderò a Giuseppina come devo truccarmi il viso, se agli svedesi è toccata in sorte una principessa parvenue, che almeno sia bella. Quando rincasammo, andai subito in camera mia e incominciai a scrivere. Fino a quando resterò ancora così sola? Parigi, 2 settimane dopo. Ci risiamo. Sono di nuovo la vergogna della famiglia. Giulia e Giuseppe sono ritornati a Parigi da Mortefontaine e hanno dato una grande festa per celebrare l'entrata di Napoleone a Mosca. Ma io non ho voluto andarci e ho scritto a Giulia che ero infreddata. Subito, il giorno dopo, lei venne a farmi visita. Mi sta molto a cuore che tu ci venga, insistette. Si sussurra parecchio in giro su te, Giambattista. Certo, sarebbe stato logico che tuo marito fosse andato in Russia con Napoleone, così non si sarebbe potuta diffondere la voce che Giambattista è alleato dello zar. Voglio che questa insinuazione perfida. Giulia, ma Giambattista si è alleato con lo zar. Giulia mi guardò sbalordita. Vorresti dunque dire con questo che è proprio vero tutto quello che dice la gente? Non so che cosa dice la gente. Giambattista si è incontrato con lo zar. E gli ha dato dei consigli. Désirée, tu sei davvero la vergogna della famiglia, gemette Giulia crollando il capo desolata. Questo mi fu già detto una volta perché avevo invitato a casa nostra Giuseppe e Napoleone Bonaparte. Allora, quando tutti i discorsi incominciavano così, la vergogna della nostra famiglia. Dimmi di che famiglia intendi parlare? Dei Bonaparte, naturalmente, disse Giulia aggressiva. Ma io non sono una Bonaparte, Giulia. Sei la cognata del fratello maggiore dell'imperatore, dichiarò lei. Sono anche questo, mia cara, tra l'altro, ma prima di tutto sono una Bernadotte. Sono addirittura la prima Bernadotte, se ci si vuol considerare come dinastia. Se non verrai, se ne diranno di più sul conto vostro e si saprà che Giambattista Bernadotte si è segretamente alleato allo zar. Ma non è affatto un segreto, Giulia, solo che i giornali francesi non possono scrivere nulla a questo riguardo. Ma Giuseppe esige assolutamente che tu venga. Non darmi dei dispiaceri, Désirée. Per tutta l'estate non ci eravamo viste. Il volto di Giulia si è fatto ancora più magro. Le pieghe agli angoli della bocca si sono accentuate. La sua pelle incolore sembra di colpo avvizzita. Fui presa da una tenerezza selvaggia. Giulia, la mia Giulia, è una donna stremata, sfiorita e profondamente delusa. Forse è stata informata delle avventure galanti di suo marito. Forse lui la tratta male perché di anno in anno anche lui si inasprisce sempre più e deve soltanto a Napoleone le sue corone di re. Forse si avvede che Giuseppe non l'ha mai amata e l'ha sposata soltanto per la sua dote, e sa anche che oggi questa dote per Giuseppe, il quale si è enormemente arricchito con le speculazioni sulle case e sui beni demaniali, non significa più nulla. Perché resta con lui? Perché si tormenta con cerimonie e ricevimenti? Per amore? Per sentimento del dovere? Per caparbietà? Se con ciò ti faccio un favore, ci verrò. Lei si premette la mano sulla fronte. Ho di nuovo i miei atroci dolori di capo, così spesso in questi ultimi tempi. Sì, ti prego, vieni, così Giuseppe dimostrerà a tutta Parigi che la Svezia è ancora sempre neutrale. Verranno anche l'imperatrice e tutto il corpo diplomatico. Porterò con me il conte Rosen, il mio aiutante svedese, dissi io. Il tuo? Ah, sì, certo, il tuo aiutante, portalo pure. Tanto di uomini ne verranno così pochi. Sono partiti tutti. Nell'uscire si fermò davanti al ritratto di Napoleone, primo console. Sì, allora era proprio così, con i capelli lunghi, le guance infossate. Adesso ingrassa, dissi io. Pensa, entra a Mosca, Napoleone, al Cremlino. È una cosa che fa girare la testa a pensarci. Non pensarci, Giulia. Coricati piuttosto, hai l'aria così stanca. Sono così inquieta per la festa, purché tutto vada bene. A vergogna della famiglia. Pensai a mamma, purché tutto vada bene. Solo quando non si hanno più i genitori si è veramente adulti. Così tristemente soli e adulti. Gli alti doppieri di bronzo dell'Eliseo versavano torrenti di luce. Io sentivo che si sussurrava alle mie spalle e che molte teste si voltavano dalla mia parte. Ma le mie spalle erano protette dall'alta persona del giovane conte Rosen e quegli sguardi non mi colpivano. Poi venne suonata la Marsigliese. Quando entrò l'imperatrice, mi inchinai un po' meno delle altre signore. In fin dei conti appartengo a una casa regnante, Maria Luisa. Lei era in rosa, un'altra volta in rosa. Si fermò davanti a me. Ho saputo che a Stoccolma è arrivato un nuovo ambasciatore austriaco, madame, disse. Un conte Neipperg. Ve lo siete fatto presentare, madame? Deve essere arrivato dopo la mia partenza, maestà, risposi e cercai di leggere in quell'inespressiva faccia di bambola. Dopo la nascita del piccolo re di Roma, Maria Luisa è diventata anche più carnosa. Sembra che si stringa molto nel busto. Aveva delle goccioline di sudore sul nasino corto. Da ragazza ho ballato col conte Neipperg al mio primo ballo di corte. E il suo sorriso si fece più intenso. Divenne più umano. Del resto è stato il mio primo e ultimo ballo di corte a Vienna. Mi sono sposata subito dopo. Non sapevo veramente che cosa risponderle. Sembrava che aspettasse qualcuno e a un tratto mi fece compassione. Da quando ha cominciato a pensare, ha sempre udito dire che Napoleone è un parvenu, un tiranno e un nemico della sua patria, e poi improvvisamente gliela diedero in moglie e lui la violentò. Pensate, il conte ha un occhio solo, sull'altro porta una benda nera. Aggiunse pensierosa. Eppure io osservo un vivo ricordo del conte Neipperg. Abbiamo ballato il valzer. Mi lasciò e a me venne in mente quella notte nella quale Napoleone aveva imparato il passo di valzer. Un, due, tre, un, due, tre. A mezzanotte echeggiò un'altra volta la Marsigliese, poi Giuseppe si accostò all'imperatrice e alzò una coppa di spumante. Il 15 settembre, Sua Maestà, alla testa del più glorioso esercito di tutti i tempi, è entrato a Mosca e ha preso dimora al Cremlino, nel castello dello zar. Il nostro esercito, vittorioso, svernerà nella capitale del nostro nemico prostrato. Vive l'empereur! Io vuotai il mio bicchiere sorso a sorso. Talleyrand mi comparve davanti. Vostra Altezza è stata costretta ad intervenire, domandò e lanciò un'occhiata a Giuseppe. Io mi strinsi nelle spalle. La mia presenza o la mia assenza non hanno molta importanza, eccellenza, non capisco niente di politica. È strano che il destino abbia scelto proprio voi per affidarvi una parte tanto importante, Altezza. Che cosa intendete dire? Domandai intimorita. Forse un giorno vi rivolgerò una preghiera decisiva, Altezza. Forse esaudirete questa mia preghiera. Ve la rivolgerò in nome della Francia. Ditemi, di che cosa parlate, vi prego. Io sono innamorato, Altezza. Perdonate, non volevo spaventarvi, voi non fraintenderete. Sono innamorato della Francia, Altezza, della nostra Francia. E si fece svanire sulla lingua un sorso di champagne. Recentemente ho accennato a Vostra Altezza che l'imperatore combatte ormai non più contro un'incognita, ma contro qualcuno che gli conosce assai bene. E questa sera noi festeggiamo l'entrata dell'imperatore a Mosca. La grande armata ha finalmente raggiunto i suoi quartieri d'inverno nella capitale russa, Altezza. Credete che questa sia una sorpresa per colui che noi ben conosciamo? La mia mano serrò lo stelo della coppa di champagne. Mio fratello si troverà certo molto bene al Cremlino. Il palazzo dell'imperatore deve essere arredato con sfarzo orientale, disse qualcuno proprio vicino a noi. Giuseppe, il re Giuseppe. È stata un'impresa ispirata a questa di mio fratello, il quale ha saputo condurre la campagna con tanta genialità che ora le nostre truppe potranno svernare a Mosca tranquillamente. Ma Talleyrand scosse lentamente il capo. Non posso purtroppo condividere l'opinione di vostra maestà. Mezz'ora fa è arrivato un corriere. Mosca è in fiamme da 2 settimane. Anche il Cremlino brucia. Da lontano smorzate giungevano le note di un valzer. Le candele vacillavano. Il volto di Giuseppe sembrava una maschera, verdognolo, con gli occhi sbarrati, la bocca aperta per l'orrore. Talleyrand invece teneva gli occhi socchiusi, immutato, impassibile, come se già si fosse atteso da un pezzo questa notizia, che era giunta appena da mezz'ora. Mosca brucia. E come si è sviluppato l'incendio? È stato appiccato, senza dubbio, e anche in altri punti della città, contemporaneamente. Le nostre truppe cercano senza riuscirvi di spegnere le fiamme. Ogni volta, quando si pensa di aver soffocato il fuoco, viene annunciato un nuovo divampare di incendi in un altro quartiere di Mosca. La popolazione soffre inenarrabili pene. E le nostre truppe, eccellenza? Beh, dovranno iniziare la ritirata. Ma l'imperatore ha detto in mia presenza che in nessun caso potrebbe, durante l'inverno, condurre l'esercito attraverso le steppe russe, insistette Giuseppe, disperato. Io non faccio che comunicare ciò che annuncia il corriere. L'imperatore non può svernare a Mosca perché Mosca brucia da 15 giorni. Talleyrand alzò il calice dello champagne verso Giuseppe. Fate che nulla trapeli, maestà. L'imperatore non vuole per ora che sia conosciuta questa notizia. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Ripeté Giuseppe con voce sorda. Altezza? Talleyrand levò anche verso di me il suo calice, ma io ero come impietrita. Guardavo l'imperatrice che ballava il valzer con un vecchio signore rattrappito dalla gotta. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Giuseppe si tergeva dalla fronte con un fazzoletto di pizzo e improvvise goccioline di sudore. «Buonanotte, cognato Giuseppe. Salutatemi Giulia. Buonanotte, eccellenza», mormorai. Ma non si può lasciare una festa prima che Sua Maestà l'imperatrice si sia ritirata. Ah, me ne infischio dell'etichetta. Sono stanca e sconvolta. No, no, non sono sconvolta. Vedo tutto chiaro, spaventosamente chiaro. Dei portatori di torce fiancheggiavano a piedi i cavalli della mia carrozza, come ogni volta che io faccio una visita ufficiale. È stata una festa indimenticabile, disse il giovane conte svedese alla mia sinistra. Ah, oh, certo, indimenticabile. Conoscete Mosca, conte Rosen? No, altezza, perché? Perché Mosca brucia, conte. Mosca è in fiamme da 2 settimane. Il consiglio di sua altezza ad Abo. Non dite altro, vi prego. Non dite altro, sono molto stanca. E la preghiera decisiva di Talleyrand? Che preghiera? E quando? Parigi, 16 dicembre 1812. Da Giuseppina alla Malmaison si lavorava. Si facevano nel salotto bianco e giallo delle filacce per i feriti di Russia e nella sua toeletta intanto si correggevano le mie sopracciglia. Giuseppina in persona si chinava con un paio di pinzette sul mio viso e diradava strappandoli i peli troppo folti. Mi faceva molto male, ma i due archi assottigliati facevano apparire i miei occhi molto più grandi. Poi ella rovistò tra barattoli e scatole di cipria e trovò un vasetto di crema d'oro. Mi spalmò un po' d'oro sulle palpebre e contemplò nello specchio il mio volto nuovo. In quel momento vidi l'edizione del mattino del Moniteur. Il giornale stava spiegazzato sulla toeletta sotto un mucchietto di nastri di pettini. Vi si era allargata una macchia rossa. Incominciai a leggere. il 29° bollettino dell'imperatore Napoleone. Questo 29° bollettino col quale gli annuncia che la sua grande armata è mitragliata, gelata, affamata e sepolta nei deserti di neve della Russia. La grande armata non esiste più. La macchia rossa sembrava una goccia di sangue, ma non era che rossetto per le labbra. Dovete truccarvi così quando comparite in pubblico, Désirée, disse Giuseppina, sopracciglia sottili, arcuate, un po' di verde sulle palpebre e soprattutto crema d'oro. Quando vi mostrerete al popolo da una finestra o da un balcone, dovete sempre montare su di un panchettino, nessuno se ne accorgerà e sembrerete più alta, credetemi. Avete letto, madame? Le porsi con le mani che tremavano il giornale. Giuseppina vi gettò un'occhiata, di sfuggita. Certo, è il primo bollettino di guerra di Bonaparte dopo tante settimane. Il bollettino non fa che confermare ciò che temevamo da un pezzo. Bonaparte ha perduto la guerra contro la Russia. Non avete mai provato, lavandovi i capelli, ad usare l'ausonia? I vostri capelli scuri avrebbero alla luce delle candele dei riflessi rossicci. Vi starebbe bene, Désirée. Questo esercito, che il giorno 6 incuteva ancora rispetto, era già il giorno 16 altra cosa. Non aveva più cavalleria né artiglieria né carriaggi, lessi. Il nemico constatò i segni dello spaventoso disastro che si era abbattuto sull'esercito francese e cercò di trarne partito, lanciando i suoi cosacchi su tutte le colonne. Con queste parole annunciava che il più grande esercito di tutti i tempi era stato annientato durante la sua ritirata attraverso i deserti di neve della Russia. Con assoluta freddezza elencava i suoi reparti di truppa, dei 100.000 uomini a cavallo che gli aveva condotto verso Mosca. Ne erano rimasti, per esempio, che 4 gruppi di 150 uomini ciascuno. 600 uomini, la cavalleria di Napoleone. Le parole estenuazione e fame ricorrevano spesso. Dapprima non riuscivo a immaginarmi la realtà. Lessi questo 29° bollettino da cima a fondo. Si chiudeva con le parole: la salute di Sua Maestà non è mai stata migliore. Quando alzai lo sguardo, mi guardò dallo specchio un volto estraneo. Grandi, melanconici occhi sotto le palpebre dorate, un naso all'insù, non più come sempre rosato, ma coperto di cipria scura e delle labbra tumide color rosa cupo come quello dei ciclamini. Posso dunque avere questa faccia così bella, così nuova? Chinai il mio nuovo viso un'altra volta sul giornale. E adesso? Che cosa succederà, madame? Alzò le spalle. Ci sono ancora due sole possibilità, Désirée. Giuseppina si lucidava le unghie. O Bonaparte vorrà fare la pace e rinunciare a reggere tutta l'Europa, oppure continuerà la guerra. Se continuerà la guerra, ci saranno ancora due possibilità. Potrebbe. E la Francia, madame! Devo averle urlato in faccia perché la sussultò, ma non potevo trattenermi.